Nuova richiede il permesso per atterrare sulla 27ª pista lunare. Passo. Mi dispiace, Alfa Sierra Sierra, permesso accordato. Let's go.